Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera, benvenuti a Mr. Kilowatt. Io sono Maurizio Melis e da questa sera inizierò con voi un viaggio che ci porterà attraverso il vasto territorio del risparmio energetico. Se le fonti energetiche sono tutto sommato poche e le decisioni in mano a pochi grandi decisori, il risparmio energetico è questione invece assai più articolata. Entra nelle case, negli uffici e nelle industrie. Entra, si potrebbe dire, in quasi ogni apparecchio, comportamento o ambiente conosciuto. Il potenziale complessivo è ignoto, si potrebbe dire, ma è chiaro a tutti che potremmo vivere con lo stesso livello di comfort risparmiando un buon 50% di energia. E tutto questo emergerà chiaramente nel corso delle prossime settimane, durante le quali ci imbatteremo, lo vedrete, in casi di spreco sorprendenti, ma anche in opportunità di risparmio inattese, con una missione chiara: individuare soluzioni praticabili oggi. E iniziamo subito allora parlando di supervetri. I doppi vetri sono entrati ormai in quasi tutte le case, ma c'è tutta una varietà di vetri più evoluti e intelligenti che sono facilmente ormai reperibili sul mercato. La caratteristica distintiva di questi vetri, come vedremo, consiste soprattutto nel fatto di gestire non solo la conduzione del calore, ma anche l'irraggiamento e in particolare gli infrarossi che, lo ricordiamo, costituiscono una quota significativa sia dell'apporto di energia solare che delle perdite. Il punto è orientarsi all'interno di un'offerta che ormai è piuttosto vasta e differenziata. A farci da bussola questa sera c'è il professor Fabio Peron, che è docente di fisica tecnica ambientale presso l'Università IUAV di Venezia. Buonasera Peron. Buonasera, buonasera. Dunque Peron, io intanto ho capito una cosa, e cioè che questi vetri intelligenti non sono solo più efficienti, ma per così dire anche più specializzati. Per esempio ci sono vetri più adatti ai climi freddi, più adatti ai climi caldi, e insomma io inizierei da questo, e visto che andiamo verso l'inverno, partirei con i vetri invernali, per così dire. Sì, i vetri attualmente si sono molto specializzati, e per quanto riguarda la capacità di disperdere meno, abbiamo essenzialmente due principali tipologie, due evoluzioni della doppia lastra ormai entrata in uso comune. Da una parte un aumento del numero di lastre, quindi si passa dal doppio vetro al triplo vetro, e dall'altro abbiamo una variazione delle caratteristiche di almeno una delle lastre, con la stesura di un film basso emissivo che limita gli scambi radioattivi lastra a lastra e quindi le dispersioni verso l'esterno. Quindi soprattutto di questi infrarossi di cui parlavamo inizialmente. Esattamente, in questo caso gli infrarossi a grande lunghezza d'onda, quelli che vengono riemessi dagli oggetti, dall'ambiente interno. Perché invece gli infrarossi che arrivano dal sole sono infrarossi più vicini, come dire, al visibile, per cui questo vetro proprio separa, fa entrare gli infrarossi che provengono dal sole, ma non fa uscire quelli che invece provengono dall'interno della casa o dell'ufficio, insomma. Possiamo dire proprio così. Ecco, andiamo invece sui vetri, come dire, estivi, su quelli per i climi caldi. Sono i vetri che vengono chiamati vetri a controllo solare, e qui sono vetri che, o basandosi sulla riflessione della radiazione, oppure basandosi sull'assorbimento della radiazione, limitano la quantità di energia che entra. Quindi sono un po' questi vetri oscurati oppure riflettenti che si vedono tipicamente sulle grandi facciate dei grattacieli. Certo, diremmo che sono più efficaci i vetri riflettenti, in quanto lasciano completamente fuori l'energia, mentre i vetri assorbenti in parte assorbono e poi riemettono verso l'ambiente. Si scalda proprio il vetro e quindi poi un po' di questo calore arriva dentro anche la casa. Ecco, poi c'è un altro tipo di vetri che, se non sbaglio, voi definite vetri selettivi. Sì, proseguendo in questa specializzazione si è cercato di trovare il modo di combinare nello stesso vetro caratteristiche utili differenti, in particolare di far entrare quanta più luce naturale possibile, cosa utile perché questa dà la miglior qualità visiva all'interno degli ambienti e limita i consumi per l'utilizzo di luce artificiale, e dall'altra di limitare durante il periodo estivo l'ingresso indesiderato di eccessiva energia solare. Si è riusciti, stendendo particolari film sulla superficie del vetro, di fare questo. Ecco, può avere un senso, diamola come indicazione ai nostri ascoltatori, mettere certi vetri su un lato della casa, magari dei vetri diversi su un lato differente? Dipende un po' dal clima. In un clima, diciamo, media latitudine come il nostro, che ha sia da tenere sotto controllo sia gli aspetti invernali che gli estivi, Il punto più delicato è durante il periodo estivo la parete ovest, dove la radiazione solare arriva quasi perpendicolare e nelle ore più calde del giorno, il tardo pomeriggio. Lì diciamo, ha senso in generale andare a installare vetri a controllo solare, in particolare riflettenti. E su un fronte nord invece è evidente che è prevalente la funzione di limitare le dispersioni, così su un fronte est. Sul fronte sud bisogna un po' scegliere a seconda delle caratteristiche. Probabilmente la combinazione di un sistema di schermatura con un vetro basso emissivo che limita le dispersioni forse è nella maggior parte dei casi la soluzione più appropriata. Ecco, senta, è fondamentale farsi un'idea dei costi. Ovviamente c'è un'estrema variabilità. Possiamo però almeno dare un'indicazione sul tempo di ritorno dell'investimento? Direi che su un edificio nuovo è nell'ordine di 3, 4, 5 anni. Comunque anche un intervento di rinnovo dell'involucro di un edificio, tempi di ritorno magari si allungano un po', però sono del tutto accettabili. Bene, per questa sera è tutto. Vi ricordiamo di scriverci a mrkilowatt@radio24.it, kilowatt con la K di chilo e la V di watt, e di raccontarci le vostre esperienze di spreco e di risparmio. Domani parliamo di consumi fantasma e di come tenerli sotto controllo. Buonasera.